Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. 9 aprile 1971. Caro Michele, Angelica mi ha detto che non verrai per le vacanze di Pasqua. Pazienza. Ormai le volte che ho detto pazienza pensando a te sono infinite. È vero che più passano gli anni e più si accrescono le risorse della nostra pazienza. Sono le sole nostre risorse che si accrescono. Tutte le altre tendono a prosciugarsi. Avevo messo in ordine le due stanze all'ultimo piano. Avevo preparato i letti e appeso gli asciugamani nel bagno. Il bagno all'ultimo piano è il più bello della casa, con le maioliche arabeschi verdi, e nel guardarlo ero contenta che lo vedesse tua moglie. Le stanze sono ancora là in perfetto ordine, con i letti pronti. Io non ci sono più entrata. Dirò a Cloti di tornare a disfare i letti. Mentre preparavo quelle due stanze, pensavo che tua moglie si sarebbe sentita a suo agio e anche pensavo che avrebbe trovato che io tengo bene la casa. Erano però due pensieri stupidi, perché io non conosco tua moglie. Non so quando e dove si sente a suo agio e non so se è di quelli a cui piacciono le case tenute in ordine e le persone che tengono in ordine le case. Angelica mi ha detto che invece te ne vai a Bruges. Io non mi chiedo cosa vai a fare a Bruges, perché ormai ho smesso di chiedermi cosa vai a fare in un luogo o nell'altro. Io cerco di immaginarmi in un luogo o nell'altro la tua vita, però nello stesso tempo sento che la tua vita è diversa da come immagino. E così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e più fiacca nell'intrecciare i suoi arabeschi sopra di te. Quando sarò meglio di salute vorrei venirti a trovare con Angelica, se questo ti fa piacere. Non verremmo a stare a casa vostra perché non voglio dare fastidio a tua moglie, che penso abbia sempre molto da fare. Andremo in albergo. Io non amo i viaggi e non amo nemmeno gli alberghi. Però preferisco ancora gli alberghi alla sensazione di dare fastidio occupando spazio in una casa piccola. Perché una delle pochissime cose che so di voi è che avete una casa piccola. Non posso partire adesso perché non sono ancora guarita bene da quella pleurite. Cioè, non ho più la pleurite, ma il medico dice che devo ancora usarmi dei riguardi. Ha anche trovato che ho il cuore in disordine. Tu spiega a tua moglie che io sono una che ha la casa in ordine e il cuore in disordine. Spiegale come sono, perché così quando mi vedrà potrà confrontare la mia vera immagine con le tue descrizioni. È uno dei rari piaceri che ci offre la vita, confrontare le descrizioni degli altri con le nostre fantasie e poi con la realtà. A tua moglie io penso spesso e cerco di immaginarla, anche se tu non ti sei curato di descriverla e quella fotografia di lei che mi hai mandato quando hai scritto che ti sposavi è piccola e confusa. La guardo spesso, ma non riesco a vedere niente salvo un lungo impermeabile nero e una testa avvolta in un foulard. A me non scrivi mai, ma sono contenta che scrivi Angelica. Penso che ti viene più naturale di scrivere a lei, perché con lei hai più confidenza che con me. Forse sono ottimista, ma penso che rivolgendoti a lei ti rivolgi segretamente anche a me. Angelica è molto intelligente e io credo che sia la più intelligente di tutti voi, benché giudicare dell'intelligenza dei propri figli sia una cosa difficile. In qualche momento ho la sensazione che non sia felice, ma Angelica è molto chiusa con me. Credo che sia chiusa con me non per debolezza d'affetto, ma per il desiderio di evitarmi preoccupazioni. Strano a dirsi, Angelica ha un sentimento materno verso di me. Quando la interrogo su lei stessa, le sue risposte sono sempre improntate a una fredda serenità. In conclusione, io di Angelica so ben poco. Quando siamo insieme parliamo non di lei, ma invece di me. Io di me parlo sempre volentieri perché sono molto sola, ma essendo sola non ho molte cose da raccontare su di me. Intendo dire che non ho molto da raccontare sui miei giorni presenti. Più che mai da quando non sto bene, le mie giornate si svolgono in una grande monotonia. Esco poco, Poche volte prendo la macchina. Lunghe ore me ne sto in poltrona e guardo Matilde che fa il ginnastica, Matilde che fa il solitario, Matilde che batte a macchina il suo nuovo libro, Matilde che si fa un berretto con degli avanzi di lana. Viola mi ha detto che è arrabbiata con te perché non le hai mai scritto nemmeno una cartolina. Per il tuo matrimonio ha comperato un bel vassoio d'argento e pensava di darvelo quando venivate. Ti prego di scrivere a Viola e ringraziarla perché il vassoio è bellissimo. Scrivi anche alle gemelle che ti aspettavano e avevano preparato dei regali per i bambini di Eileen, cioè un coltello a serramanico e una tenda per giocare agli indiani. E naturalmente ti prego di scrivere anche a me. Ieri Osvaldo è partito per l'Umbria con Elisabetta e Ada. Così per una settimana non avremo la sera le sue visite. Io mi sono abituata a vederlo comparire qui la sera. Mi sono abituata a trovarmi davanti per qualche ora la sua faccia colorita e la sua testa larga e quadrata dai capelli radi e ravviati. Anche lui deve essersi abituato a passare le sue serate in questa casa, giocando a ping pong con le gemelle e leggendo Proust ad alta voce a Matilde e a me. Quando non viene qui, va invece da Angelica e Oreste, dove fa cose simili ma lievemente diverse. Per esempio legge Paperino alla bambina e gioca a tombola con Oreste e i Bettoia. Oreste lo trova piacevole ma futile. I Bettoia lo trovano futile ma simpatico. Infatti non si può dire che sia antipatico. Non mi sembra esatto definirlo futile, perché dalla futilità non ci si aspetta niente. E invece da lui ci si aspetta che di colpo scopra e riveli agli altri la sua ragione di esistere sulla terra. Io lo credo molto intelligente, ma sembra che la sua intelligenza la tenga custodita nel suo torace, nel suo pullover e nel suo sorriso, trattenendosi dall'usarla per motivi che restano nascosti. Nonostante il suo sorriso, lo trovo un uomo tristissimo. Forse è per questo che mi sono abituata alla sua compagnia. Perché amo la tristezza. Amo la tristezza ancora di più dell'intelligenza. Tu e Osvaldo eravate amici e io molto raramente ho avuto il bene di conoscere un tuo amico. Perciò a volte lo interrogo su di te, ma le sue risposte alle mie domande su di te sono piene di una fredda serenità che rassomiglia a quella di Angelica quando le chiedo se le cose le vanno bene e se è felice. Ho l'impressione che anche Osvaldo voglia risparmiarmi delle preoccupazioni. In sua assenza mi capita di detestarlo, ricordando la sua voce calma e le sue risposte così serene e sfuggenti. Ma quando lui è qui, me ne sto quieta e accetto i suoi silenzi e le sue sfuggenti risposte. Mi è venuta con gli anni una sorta di mansuetudine e rassegnazione. L'altro giorno mi sono ricordata di una volta che sei venuto qui e appena venuto ti sei messo a frugare in tutti gli armadi alla ricerca di un tappeto sardo che volevi appendere al muro del tuo scantinato. Doveva essere l'ultima volta che ti ho visto. Io ero in questa casa da pochi giorni, era novembre. Gironzolavi nelle stanze e frugavi in tutti gli armadi che erano appena stati messi a posto e io ti andavo dietro lamentandomi perché portavi sempre via i miei oggetti. Quel tappeto sardo devi averlo poi trovato e preso, perché qui non c'è. Non c'era nemmeno nello scantinato. A me comunque di quel tappeto non me ne importa niente. E non me ne importava niente neanche allora. Lo ricordo perché è forse legato all'ultima volta che ti ho visto. Ricordo che provavo nell'arrabbiarmi e nel protestare con te una grande allegria. Sapevo che le mie proteste avrebbero suscitato in te allegria e noia mescolate. Penso ora che quello era un giorno felice, ma purtroppo è raro riconoscere i momenti felici mentre li stiamo vivendo. Noi li riconosciamo di solito solo a distanza di tempo. La felicità era per me protestare e per te frugare nei miei armadi. Ma devo anche dire che abbiamo perduto quel giorno un tempo prezioso. Avremmo potuto metterci seduti e interrogarci vicendevolmente su cose essenziali. Saremmo stati probabilmente meno felici, anzi, saremmo stati forse infelicissimi. Però io adesso mi ricorderei quel giorno non come un vago giorno felice, ma come un giorno veritiero e essenziale per me e per te, destinato a illuminare la tua e la mia persona, che sempre si sono scambiate parole di natura deteriore, non mai parole chiare e necessarie, ma invece parole grigie, bonarie, fluttuanti e inutili. Ti abbraccio, tua madre. Leeds, 30 aprile 1971. Cara Angelica, sono un amico di Aileen e Michele. Ho conosciuto Michele in un cineclub. Mi ha portato qualche volta a cena a casa sua, così ho conosciuto anche Aileen. Sono italiano e mi trovo a Leeds con una borsa di studio. Ho avuto il tuo indirizzo da Michele. Mi aveva detto che ti venissi a trovare se tornavo in Italia nell'estate. Ti scrivo per farti sapere che tuo fratello ha lasciato la moglie ed è partito per destinazione ignota. La moglie non ti scrive, primo perché non sa quasi per niente l'italiano, secondo perché sta molto male di spirito. Mi fa una gran pena, anche se non mi sento di giudicare Michele, e anche lui mi faceva pena quando andavo a trovarlo qui nella pensione molto sporca dove si era cacciato. Aileen vuole che io vi avverta che Michele se n'è andato. Primo, perché non sa se lui stesso vi aveva informati del fatto che il loro matrimonio era andato per aria. Secondo, perché Michele è partito senza lasciare l'indirizzo. Terzo, perché partendo ha lasciato qui diversi debiti. Lei non intende pagare questi debiti e vi prega di pagarli voi. Michele ha lasciato di debito 300 sterline. Aileen chiede di farle avere queste 300 sterline, se possibile, subito. Ermanno Giustiniani, Lincoln Road 4, Leeds. Maggio 1971. Caro Ermanno Giustiniani, di Aileen che le manderemo quei denari tramite un nostro parente, Lillino Borghi, che deve venire in Inghilterra proprio in questi giorni. Se intanto avete saputo dove si trova adesso Michele, ti sarei grata di comunicarmelo subito. Noi non ne abbiamo più avuto notizie. A me aveva scritto che forse voleva andare a Bruges, ma non so se davvero è andato là o altrove. Mi aveva scritto che non aveva nessun amico a Leeds, ma forse era prima che vi incontraste in quel cineclub. Oppure aveva mentito, come forse ha mentito su varie altre cose. E fra le sue reticenze ed eventuali menzogne, io faccio fatica a orientarmi sulla sua vita. Ma anch'io certo non lo giudico, e d'altronde non ho in mano gli elementi necessari per giudicarlo. Posso dispiacermi delle sue menzogne e reticenze, ma esistono circostanze sventurate che ci legano alla menzogna o alla reticenza anche contro la nostra volontà. Non scrivo a Aileen direttamente perché anch'io so male l'inglese e poi perché non so cosa potrei dirle, se non che sono addolorata di quello che le è successo, ma a questo forse puoi dirglielo tu. Angelica Vivanti De Righi. Trapani, 15 maggio 1971. Caro Michele, non ti meravigliare se ti scrivo da Trapani. Sono finita a Trapani. Non so se ti avevo raccontato che in una pensione in piazza Annibaliano che si chiamava Pensione Piave avevo fatto amicizia con una signora molto gentile con me. Una volta mi aveva detto che potevo ospitarmi a Trapani col bambino. L'avevo poi completamente persa di vista e non mi ricordavo il suo cognome. Mi ricordavo solo il suo nome. Il suo nome è Lilia. È una grassa con una testa tutta riccioluta. Da Novi Ligure io ho scritto la pensione Piave a una cameriera di cui pure sapevo solo il nome, Vincenza. Le ho descritto quella lì, grassa, riccioluta, con un bambino piccolo. La cameriera mi ha dato l'indirizzo della Riccioluta Trapani, dove il marito ha messo su una tavola calda. Io ho scritto alla Riccioluta, ma non ho aspettato la sua risposta per partire. Così sono qui. Il marito non era per niente entusiasta di vedermi, ma la Riccioluta ha detto che io l'avrei aiutata nella casa. La mattina mi alzo alle 7 e porto il caffè alla Riccioluta, che se ne sta a letto con una liseuse. Poi mi devo occupare dei bambini, il mio e quello di lei, scendere a fare la spesa, pulire la casa e rifare i letti. La Riccioluta porta su qualcosa dalla tavola calda, di solito delle lasagne, perché le lasagne le piacciono moltissimo. Io però quelle lasagne e in genere le pietanze della tavola calda non le trovo tanto buone. La Riccioluta è infelice in questa città, la trova squallida. In più la tavola calda non va niente bene, hanno da pagare i cambiali. Mi ero offerta di tenere i conti, ma il marito ha detto che non gli sembravo adatta, e credo che ha ragione. La Riccioluta spesso piange sulla mia spalla. Non riesco a consolarla perché anch'io non sono allegra. Il bambino però qui sta bene. Lo porta ai giardinetti il pomeriggio con l'altro bambino. La Riccioluta ha una carrozzella dove entrano tutti e due. Ai giardinetti io chiacchiero con la gente che trovo e racconto bugie. Si sta bene con gli sconosciuti quando si è depressi. Almeno si possono raccontare bugie. La Riccioluta ora non è più niente una sconosciuta per me. So a memoria i lineamenti della sua faccia, so tutti i suoi vestiti, le sue sottovesti, i bigodini che si mette per avere tutti quei riccioli. La vedo ogni giorno mangiare le lasagne impiastrandosi tutta la bocca di pomodoro. Anch'io non sono più niente una sconosciuta per lei. Certe volte mi tratta male e io le rispondo malissimo. Bugie non gliene racconto più, perché certe volte le ho raccontato invece tutta la verità piangendo sulla sua spalla. Le ho raccontato che non ho nessuno e che mi hanno preso a calci nel culo da tutte le parti. Il bambino della Riccioluta pesa a 7 mesi 9 chili. Il mio pesa solamente 7 chili e 2 etti, ma un pediatra a Novi Ligure mi aveva detto che non occorre che i bambini siano tanto grassi. Del resto il mio è più bello e più roseo. E ti devo dire che adesso hai capelli ricci e biondi, non proprio rossicci come i tuoi, ma di un biondo che dà nel rossiccio. E gli occhi non sono proprio verdi, ma di un grigio che forse dà nel verde. In qualche momento quando ride mi sembra che ti rassomigli, ma invece quando dorme non ti rassomiglia per niente e rassomiglia soltanto a mio nonno Gustavo. La Riccioluta dice che si potrebbe fare per sapere se è tuo la prova del sangue, ma anche questa non è una cosa sicura. Per sapere se uno è figlio di un altro non esistono dei sistemi sicuri. Ma poi in fondo cosa importa? A te non interessa e anche a me interessa poco. Quelle 12 tutine che tua moglie mi aveva fatto mandare, devo dirti che adesso mi fanno comodo. Io le avevo disprezzate, ma invece servono. E certe volte le metti anche il bambino della Riccioluta quando non ha altro. Praticamente io qui faccio la serva. Non mi piace fare la serva e credo che non piace a nessuno. La sera mi corico stanca a morte col male ai piedi. La mia stanza è dietro la cucina, si muore dal caldo. Pagarmi qui propriamente non mi pagano perché dicono che sono alla pari, cioè mi danno qualche 5.000 lire ogni tanto quando si ricordano. Ma da che io sono qui se ne sono ricordati solo 2 volte. È vero che anche loro sono in cattive acque. La mia pelliccia l'ho messa nell'armadio della Riccioluta, in un tessil sacco, e la Riccioluta ogni tanto apre la chiusura lampo e carezza una manica. Dice che vorrebbe comperarla, ma io non voglio venderla a lei, perché ho paura che me la paghi poco e magari niente. Avevo pensato di non venderla e conservarla in ricordo del tempo che vivevo col pellicano, ma invece la venderò perché io non sono una sentimentale. Ogni tanto ho delle ventate di sentimentalità, ma subito mi spariscono. Subito ridivento quella che sono, cioè non sentimentale coi piedi ben piantati sulla terra. Osvaldo però dice che non ho per niente i piedi sulla terra e galoppo sulle nuvole. E forse è vero, perché infatti ogni tanto piglio delle culate spaventose. Osvaldo l'ho visto alla metà di aprile, quando mi sono fermata a Roma venendo qui. Sono andata al botteghino e lì c'era la signora Peroni che ci ha accolti me e il bambino con grandi feste. E dopo è arrivato lui. Gli ho chiesto notizie di te, ma non ne aveva ed era appena ritornato da un giro in Umbria, naturalmente con Ada. Mi ha accompagnato alla stazione con la sua 500. De Pellicano mi ha detto che si è stabilito in una sua villa nel Chianti e forse chiuderà la casa editrice perché non gli interessa più. Ada a volte va a trovarlo nel Chianti, ma a me del Pellicano ora non me ne importa più e il tempo in cui mi struggevo di lacrime su di lui mi sembra già lontanissimo. L'importante è camminare e allontanarsi dalle cose che fanno piangere. Osvaldo mi ha detto che a Trapani sarei stata male e mi avrebbero fatto fare la serva, come infatti è avvenuto. Ma io gli ho detto che piano piano, con calma, mi sarei trovata un'altra sistemazione, magari un lavoro sul tipo di quello che facevo nella casa editrice prima che il Pellicano mi tirasse a vivere nel suo attico. Veramente non mi aveva tirato e mi ero cacciata lì io. Del resto Osvaldo non mi proponeva niente, solo trovava che non dovevo partire per Trapani. Che bella scoperta! Io lo sapevo da me che questa città di Trapani mi avrebbe fatto morire di malinconia la sera. Ma basta non guardare dalla finestra, cacciarsi in un letto e tirarsi il lenzuolo sulla testa. Osvaldo è rimasto lì finché non è partito il treno. Si è seduto nello scompartimento, mi ha comperato riviste e panini e mi ha dato dei soldi. Gli ho lasciato il mio indirizzo a Trapani nel caso che gli venisse in testa di farmi una visita. Poi ci siamo abbracciati e baciati. E mentre lo baciavo ho capito che è un completo frocio. Prima avevo dei dubbi, ma in quel momento sul treno tutti i dubbi sono spariti. Ti scrivo il mio indirizzo in fondo alla lettera. Non so se rimarrò qui ancora molto tempo perché ogni tanto la riccioluta dice che non può permettersi il lusso di avere una alla pari. Qualche volta dice così, ma qualche volta mi abbraccia e dice che le faccio una compagnia immensa. A me la riccioluta mi fa pena. Però nello stesso tempo la odio. Ma ho scoperto che la gente a conoscerlo un poco poi fa pena. Per questo si sta così bene con gli sconosciuti, perché non è ancora cominciato il momento in cui fanno pena e si odiano. Penso che qui si morirà dal caldo in agosto. Ti scrivo nella mia stanza. È una stanza con una finestra che per aprirla bisogna salire sul letto. Fa caldo già ora. Sotto di noi c'è la tavola calda. E quest'idea mi fa venire ancora più caldo. Ti scrivo seduta sul letto e ho vicino un mucchio di roba da stirare. Ma ti puoi immaginare se mi metto a stirare adesso? Ti scrivo al tuo solito indirizzo a Leeds. Tante volte mi chiedo che vita fai con tua moglie in quella città inglese. Sarà sempre meglio la tua vita di questa vita che è toccata a me. Uomini che mi possono interessare, io qui non ne vedo nessuno. Certe volte mi chiedo dove mai si sono cacciati gli uomini che mi interessano e che si interessano a me. Ti abbraccio, Mara. Via Garibaldi 14, Trapani. Ad alta voce, Anna Bonaiuto ha letto Caro Michele di Natalia Ginzburg. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.